America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, New York. New York, metropoli e Stato hanno osannato, premiato, lanciato ieri notte verso la nomination per la Casa Bianca nel 2016. Beh, i due figli prediletti, Hillary Clinton e Donald Trump. La vittoria per tutti e due è stata schiacciante. Trump ha avuto ben il 60% delle preferenze, la Clinton il 57,6%, beh, e dire che i migliori sondaggi della vigilia non superavano per entrambi il 52-53%. Però bisogna dire che qui a New York Hillary ha già vinto due volte il Senato, conosce ogni angolo dello Stato, ha potuto contare sull'appoggio del sindaco Bill de Blasio, del governatore Andrew Cuomo. L'hanno presentata ieri alle celebrazioni per la vittoria con discorsi a dir poco trionfali. E Trump, beh, che dire di Trump? Per i newyorkesi repubblicani è l'orgoglio e il successo di un marchio, di un personaggio che prima di essere politico era già una celebrity televisiva, oltre che negli affari. Per questo Cruz e Kasich, devo dire, li vedo piuttosto male. Kasich, che tra l'altro è arrivato secondo, anche se a distanza, fra i repubblicani. Lo stesso vale per Bernie Sanders, devo dire, ha combattuto come un leone in campo democratico, però, le speranze erano davvero pochine. Sentiamo i due candidati vincenti. Today you proved once again there's no place like home. You know, in this campaign we've won in every region of the country. Ecco Hillary, l'avete sentita, eccitata, felice, dice: siamo in dirittura finale, la vittoria è a portata di mano, ho vinto in molte parti del paese, ho vinto a nord, a sud, a ovest, ma qui a est, qui a New York, per me questa vittoria ha un sapore davvero molto, molto personale. E i newyorkesi sanno, dice Hillary, che quando posso coprire le loro spalle, lo farò sempre, come ho sempre fatto. Beh, era davvero raggiante, si è anche commossa a un certo punto, insomma, gli occhi erano umidi quando ha ricordato il tragico eccidio di Sandy Hook, la scuola elementare di Sandy Hook, e quando ha promesso che da presidente farà di tutto per porre dei limiti al porto d'armi in America. Ecco Trump. It has been really something amazing, and believe me, we are going to use our great business people to negotiate unbelievable trade deals so we bring our jobs back and we don't let our companies go to Mexico and all of these other countries anymore. We're going to keep the jobs here. Ecco, avete sentito Trump, il tono è quello di sempre, promette all'America la gloria che merita, all'economia i primati di un tempo, ai lavoratori americani la dignità di un lavoro ben remunerato e non rubato da cinesi o messicani. Trump, tra l'altro, ha attaccato anche Cruz perché dice ha fatto pastetta con la leadership per rubare 34 delegati in Colorado che sono stati appunto assegnati dal partito. Devo dire che in effetti, a parte la messa in piega trionfale di Trump, perché ieri notte, ecco, ha battuto qualunque primato, era morbida, perfetta, inimitabile, insomma, questa sua permanente. Ecco, a parte questo, devo dire che abbiamo visto un Trump leggermente diverso, più serio, un Trump nuovo, già pronto alla seconda parte della partita elettorale, meno aggressivo sul piano verbale contro gli avversari, già presidenziale, un Trump convinto di potercela fare fino in fondo. E lo stesso vale per Hillary, era più rilassata, più lucida di molti altri comizi. Del resto, se si andrà avanti così, devo dire, New York farà storia in molti modi, darà al paese tutti e due i candidati presidenziali, cosa che non mi sembra sia mai successa prima, ma darà anche il primo candidato donna e il primo candidato outsider, celebrity e uomo d'affari. Let's take a look at these numbers right here, what they're specifically looking for when it comes to what they're looking for in a president. Ecco, le televisioni naturalmente hanno impazzato anche a fare un po' di conti, perché dobbiamo chiederci adesso quanto è più vicina dopo New York la vittoria finale. Trump ha vinto ieri 89 delegati su 94, questo grazie al premio di maggioranza repubblicana, sale a 844 delegati complessivi contro i 533 di Ted Cruz. Dunque la distanza si è allargata enormemente, perché Cruz non ha preso neanche un delegato a New York. Mancheranno dunque 393 delegati a Donald Trump per arrivare alla convenzione di Cleveland con i 1237 delegati necessari. Possibile? Beh, sì, in realtà potrebbe essere possibile anche dal punto di vista matematico, perché per esempio già il 26 aprile prossimo in Pennsylvania, Maryland, Delaware ci saranno in palio 141 delegati in campo repubblicano, di nuovo con un premio di maggioranza, e Trump in quegli stati è avanti, in alcuni casi al 46%, in altri casi al 43%, e questo senza contare l'effetto scia di questa vittoria molto forte a New York. Lo stesso vale per Hillary. Ieri ha conquistato 144 delegati, sale a quota 1411 sui 2383 necessari. Certo, ha ancora parecchia strada da fare, le mancano ancora 1000 delegati, però pensate che in California, in campo democratico, ce ne saranno oltre 500. Non solo, ci sono anche i super delegati che per ora non fanno parte di questo conteggio. Anche Hillary è in vantaggio in Pennsylvania, Maryland. Dunque New York ha sancito per una volta, dopo decenni in cui non ha davvero contato molto nelle elezioni presidenziali, beh, devo dire, ha sancito con i due figli prediletti, come vi dicevo all'inizio, un percorso ben chiaro verso la corsa per la Casa Bianca del 2016. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, cosa scegliamo oggi? Beh, ovviamente New York. Ma cosa su New York? Beh, New York State of Mind di Billy Joel, un newyorkese doc, come i vincitori di queste primarie, nato nel Bronx. Di Billy Joel, New York, State of Mind, per l'intero paese. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing. Don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.